Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È passato un anno da quel primo incontro con un coniglio bianco. Ieri sera si è rimesso sul mio cammino e ha scelto un bel momento. Di nuovo in inverno, di nuovo soli, di nuovo buio. Ciao, sono Gianfranco, ho 40 anni e vivo a Torino. Sono un tecnico informatico musicale e un maratoneta. Soprattutto mi aveva fatto effetto come lei lo aveva detto. Porta un amico. Il tono, come se fosse la cosa più naturale del mondo, come se lei mi avesse detto porta un panettone che ce lo mangiamo, oppure porta una bottiglia di spumante che ce la beviamo. Il periodo era quello, Natale. Intendo dire il giorno di Natale proprio. Mattina, le 11:15. Le 11:15 del giorno di Natale, del 1986. Mi chiamo Emilio Previtali, ho 50 anni e vengo da Bergamo. La mia storia racconta di come il giorno di Natale possono arrivare sorprese del tutto inaspettate. Era giugno dell'anno scorso, era il 2013, era il secondo live di Voi Siete Qui e questo era l'inizio della storia di Emilio Previtali, che ormai i più ricordano probabilmente. È un amico, è una persona che ha mandato storia a questo programma ed è un alpinista che spesso va in giro per il mondo e racconta quello che fa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e mancano 10 giorni al live di Voi Siete Qui, che sarà ufficialmente in diretta dal vivo giovedì 26 giugno 2014, certo, 2014, qui dalla sede di Radio 24 in via Monterosa 91. È tutto gratuito, è tutto libero, è tutto aperto. Ci saremo io, ci sarà Tiziano Bonini, ci sarà Margherita Ina, ci saranno tutti i tecnici che vorranno partecipare, ma soprattutto ci sarà Mauro Ottolini e la sua band, che suoneranno dal vivo e musicheranno 10 tra le storie che sono arrivate quest'anno a questo programma. Per iscrivervi gratuitamente, lo ripeto sempre, ci tengo a farlo, gratuitamente andate sul sito di Radio 24, cercate, scrollate o semplicemente scendete, c'è un piccolo riquadro blu con scritto, anzi ripeto blu, con scritto Voi Siete Qui Live, ci cliccate sopra e vi iscrivete gratuitamente e ci vediamo giovedì prossimo, tra meno di 10 giorni, anzi tra 10 giorni quasi esatti, il 26 di giugno alle 21, qui via Monterosa 91. E per quelli che saranno presenti a quella serata, oltre alla festa, oltre alle 10 storie, oltre alla musica di Mauro Ottolini e dei Sousaphonics, ci sarà in omaggio, come sempre succede, grazie al marketing di Radio 24, ci sarà in omaggio una copia cartacea dell'ebook di Voi Siete Qui, la terza stagione, che da questa mattina è online ed è disponibile, scaricabile gratuitamente. Lo dico solo per loro, nel senso che è un piccolo regalo che facciamo ad hoc per le persone che vengono qui. Quindi se venite al live di giovedì prossimo, in omaggio, oltre ai gadget della radio che ci sono sempre in queste splendide buste di Radio 24, anche l'ebook, che in quel caso non è un ebook perché è un libro vero e proprio in formato cartaceo. Se non potete venire e volete scaricarvelo, andate o sul nostro profilo Facebook, c'è il link diretto, oppure digitate in qualche modo, andate su Ultima Books, che è la piattaforma di Simplicissimus che ci ha creato anche quest'anno l'ebook, per questo lo ringraziamo. In questo momento l'ebook in formato EPUB, ve lo diciamo subito, non c'è il PDF, è solo EPUB, quindi è proprio libro elettronico, lo trovate sulla piattaforma di Ultima Book, su Kobo e su Google Play. Stiamo aspettando i tempi tecnici di iTunes e di Amazon, che dovrebbe essere massimo domani, una giornata sarà disponibile anche lì. E la terza stagione ha una copertina bellissima con una riga concentrica disegnata da Francesco Pini, è gratuito, hanno già scaricato in 25.000 persone, l'hanno già scaricato quella degli anni passati, non è che ragazzi è uscito stamattina 25.000, ma in casa negli Stati Uniti. Le altre due edizioni, la prima e la seconda, è stato scaricato da 25.000 persone, sai come dicono, non mancate, diventa anche tu il 26.000esimo a scaricarti l'ebook di quella roba lì. Insomma, l'ho detto tutto, live e ebook, raccontiamo la storia. Allora tenetevi forte ragazzi, perché la storia di oggi è una storia ad alto tasso di adrenalina, direi, nel senso che si racconta di un incontro con un animale che vi giuro che l'ho visto, era un coniglio bianco, non dico altro. Questa qui è la storia di Gianfranco. Ad un anno di distanza, quello che oramai si è più che chiaramente delineato come il mio animale guida è tornato a farmi visita, e nel modo in cui lui preferisce, inaspettatamente e col favore delle tenebre. Poco più di un anno fa, infatti, esattamente il 18 dicembre del 2012, pubblicavo sulla mia bacheca di Facebook questa frase. Stasera, dopo una settimana di febbre, raffreddore, indolenzimenti vari, male ad ogni muscolo, tendine, osso e giuntura del corpo, decido di tornare a fare una corsetta. Peggio di così non mi può andare. Perlomeno questa corsetta mi darà uno scossone, insomma qualcosa succederà. Se sto bene per lavorare, sto bene per correre. Intorno alle 19 sono pronto e parto, bello imbacuccato. Al Parco del Valentino ci sono circa 2 gradi. È buio, umido ed i runner se ne incontrano meno del solito. Faccio i miei 4 km di riscaldamento. Mi fermo un minuto, non mi sento proprio in forma, ma non mi aspettavo nulla di più. Decido per un medio di 6 km, giusto per riaprire un po' i polmoni e per far capire alle gambe che non ci siamo del tutto addormentati. Con fatica porto a termine il mio allenamento, vero e proprio. Mi sento sudato, mi sento freddo e temo già le conseguenze. Corro 4 volte a settimana dal 2011. Gli allenamenti sono di un'ora la maggior parte delle volte, tranne in fase di preparazione alla maratona che spingono anche alle 2:30. Decido già che non farò stretching per non prendere freddo. Mi dico, cammina 300 metri, poi fatti i tuoi 3 km di defaticamento, passa a comprarti la cena al Carrefour e potrai farti una bella doccia bollente e rigenerante. Proprio mentre inizio i 300 metri di cammino, con la coda dell'occhio sinistro vedo una minuscola macchia bianca. Mi volto e continuo a vederla. Mi sembra un piccolo cane, ma a parte il fatto che intorno non c'è proprio nessuno, guardando meglio e avvicinandomi vedo che non è un cane, neanche un gatto, è un coniglio. O almeno sembra, tutto bianco. Il primo pensiero è, ecco un regalo poco apprezzato. Mi avvicino, il coniglio dalle orecchie piccole saltella, ma di certo non scappa nel modo in cui una preda scappa a un predatore. Mentre mi avvicino e gli arrivo ad un metro, ecco, ho l'illuminazione. La so, questa la so. Sono solo, nel buio, di notte col freddo e segui il coniglio bianco. Certo, mica mi faccio fregare stavolta, questo è un segno. Tutta la vita ad aspettare, a cercare un'indicazione, un segno. E ora, certo, segui il coniglio bianco. Mi avvicino ancora, gli sono a 20 centimetri, mi accovaccio, non passa nessuno. Penso che non sono allucinazioni, non ho la febbre alta. Lo guardo, esiste. Ma lui fa di tutto per darmi il posteriore. Non scappa, ma non vuole starmi faccia a faccia. Dico, vabbè, le regole le hai detti tu, per carità. E gli parlo, sì, gli parlo ad alta voce. Lui niente. Io gli dico che ho capito, che so tutto, sono pronto a seguirlo. Sono pronto pure a nuotare sul Po. Può portarmi dove vuole. Da Morfeo, dall'Oracolo, dallo Stregatto, da Topo Gigio, da Monti. Basta che mi dica qualcosa. Ma niente, mi dà il culo. E poi rosicchia l'erba. Non so quanto duri questa scena, ma so che dopo un po' il sudore mi si ghiaccia addosso per bene. Allora gli urlo che è un vigliacco, che è un coniglio vigliacco, sì. Certo, farò una brutta fine con la mia arroganza ed il mio non sapere interpretare i segni. Ma anche tu però, penso, no? Non è che duri tanto, al buio, al freddo, a rosicchiare steli vetrificati con i cani che frequentano questa zona e i ratti, grandi quanto lui. Per un attimo penso che dovrei portarlo a casa, perché qui morirà, di sicuro. Ci provo a toccarlo, ma pur non scappando fa giusto un salto di 10 centimetri più in là, ogni qualvolta tendo la mano. Insomma, anche per stasera, niente paese delle meraviglie. È passato un anno da quel primo incontro con un coniglio bianco. E ieri sera si è rimesso sul mio cammino. E ha scelto un bel momento. Di nuovo inverno, di nuovo soli, di nuovo buio. Ed in qualche modo di nuovo una sfida. È 1:25 della notte del 10 gennaio. Sono di ritorno da una bella serata ad Ogliani. Sono sulla Torino-Savona, passato il casello di Carmagnola. Più o meno all'altezza di Villa Stellone, poco prima di Moncaglieri, mi compare davanti ai fari così, all'improvviso. Non lo vedo arrivare, lo vedo direttamente lì, davanti alla macchina, immobile, come se fosse stato lì da sempre, in un atteggiamento che non attribuirei ad un coniglio, immobile ma non rannicchiato. Il petto è in bella mostra, le orecchie tese, gli occhi spalancati. Mi fissa e direi che è pure spavaldo. L'asfalto non è né bagnato né ghiacciato e non ho nessuno né davanti né dietro. Scelgo allora di scartare velocemente verso destra. Non sento nessun rumore e quindi sorrido, pensando al mio karma che prende punti, non l'ho ucciso. In brevi attimi rifaccio la stessa manovra verso sinistra per tornare in centro alla strada, ma questa volta non è indolore come la prima. La mia auto ha un sussulto ed un tratto si mette a scodinzolare che manco Gustav Töni. Sono veramente brevissimi attimi. L'auto prende il via e attraversa la striscia bianca di destra sull'asfalto che delimita la carreggiata. Niente, capisco che è andata. Non posso far nulla se non aspettare che finisca. Rotolo, non so quante volte rotolo. Ma come scoprirò più tardi, il punto di entrata nel campo a fianco e il punto in cui la giostra si ferma, sempre nello stesso campo, sono ben lontani. E quello che oramai è un rottame, finalmente decide di fermarsi appoggiandosi sul lato destro. È finita. La prima cosa che penso è che... no, fidati, non è un brutto sogno. Sento un odore strano e nell'abitacolo vedo del fumo. Penso che l'urgenza ora è uscire. Mi guardo velocemente attorno, recupero a terra il telefono, lo guardo, è integro e funzionante. Ho 32% di batteria. La porta del lato passeggero è il mio attuale zerbino. Mi volto, guardo il lunotto posteriore. Bene, completamente disintegrato. Via libera. Strisciando riesco finalmente ad uscire, fuori non fa così freddo e io sono completamente integro. Pochissime auto che sfrecciano veloce ma lontane parecchi secondi, se non minuti, tra di loro. Cerco di riguadagnare con le mie gambe la sede stradale e capisco che dall'autostrada è praticamente impossibile vedere l'auto. C'è il buio più completo, ma io sono calmo e assaporo come non mai il fatto di essere lì. Beh, intanto assaporo il fatto di essere sotto il cielo stellato, comprendendo la fortuna di poterci essere dopo un'esperienza del genere, immediatamente dopo, insomma, è tutto intero e stando in piedi e riassaporando anche in quell'attimo cose banali come poteva essere la brezza, che era invernale in realtà, ma che per il momento era un clima mite perché c'erano in circa 8-10 gradi. Il campo è molle, le scarpe affondano, è difficile camminare. Chiamo Andrea al telefono, mi risponde. Gli racconto velocemente e gli chiedo di passare a recuperarmi. Gli invio via SMS il punto preciso che il GPS mi segnala. Dopo la telefonata cerco di rilassarmi. Mi riavvicino, scatto qualche foto, mi ascolto e sono intero. Guardo quel che resta dell'auto e torno ad ascoltarmi e a non credere alla mia integrità. Parlo un po' con il mio coniglio, questa volta solo nella mia testa però. Gli dico che mi ha fatto un bello scherzo. In fondo però è stato ben fatto, riuscito. Hai aspettato un anno per prenderti la tua rivincita, ma in modo bonario, nessuno si è fatto male. Quel che è giusto è giusto. Ti avevo lasciato lì da solo al freddo ed ora hai fatto lo stesso con me. Mi volevi parlare e io non ti ho dato un granché ascolto, pretendendo di fare a modo mio. E nonostante qualche sforzo nella direzione giusta in questi mesi da parte mia ci sia stato, hai deciso che era ora di pungermi un po'. E probabilmente hai ragione tu. Spero pace fatta, coniglio. Grazie. Finalmente arriva Andrea con Angela. Abbracci, ci si tocca, c'è bisogno di tastarsi per sentire che ci siamo. Siamo corporei, siamo tutti ancora qua. Il resto poi è una notte in ospedale con la biroluminosa a scrutarti le pupille, mani estranee ad indagarti l'addome, facce stanche che ti fanno domande di routine. Prende farmaci, è allergico, nulla da segnalare, esami tossicologici, tutto verbale. Alle 7 sono a casa, salgo le scale del soppalco e stasera, per verificare ancora che tutto fosse veramente ok, 13 km di corsa, lenta e leggera, pulsazioni perfette e nessun dolorino. It's just like summer camp with gray slam nights. Sorride e fa ok con le dita Gianfranco mentre sta guardando la macchina fotografica. Non è una foto normale, però sta scendendo in caduta libera senza il paracadute ancora, o meglio ce l'ha sulle spalle in tandem ma non è ancora aperto. Sopra di lui il cielo, sotto di lui la terra che si avvicina. Pronto Gianfranco? Ciao Matteo. Come stai? Bene. Allora, la posso prima dire bene. La prima bene, lo sentiamo e siamo contenti anche del tuo racconto. La prima domanda è: l'hai più rivisto? No. Ok, quindi sono state due apparizioni. Sì, per adesso sì, però la scadenza è annuale, quindi vedremo, magari all'inizio del 2015. La terza domanda te la farei, ma è superfluo, arrivano un sacco di messaggi che chiedono qual è il pusher, quello buono, però è ovvio, cioè era anche abbastanza scontata. Tu di fatto questo coniglio, bene, a parte che ammetto che queste sono le storie che preferisco, ce n'era stata una durante l'anno in cui c'era un tizio che aveva visto un cane, sempre un runner tra l'altro, che stava correndo in un parco a Roma, è stato accerchiato, forse qualcuno se la ricorderà, da dei cani, e a un certo punto i cani, mentre erano intorno a lui da soli, cani randagi, lui ha sentito tipo il capo dei cani, dire nitidamente "Namo" e se ne sono andati. Quindi io adoro queste storie. Figurati di uno che corre con la febbre di notte a Torino al Parco del Valentino e trova un coniglio e dice di aver capito tutto, perché Gianfranco è quella roba lì la roba più bella. Ho capito, devo seguirti. Sì, per una volta ho detto ecco, finalmente ci sono sul pezzo. E ma invece l'hai lasciato andare. E purtroppo non ci siamo intesi. È andata così. Mi dici però che ha avuto questa cosa, ha fatto sì che si rincontrassero. Allora, abbiamo capito che corri e che vedi conigli in giro per la strada. E che altro fai nella vita, Gianfranco? Ma sono un tecnico informatico musicale e mi occupo di marchi che probabilmente anche in radio usate. Non mi dilungo, ma dai plugin da strumenti musicali virtuali su computer, microfoni, cassa, eccetera. Ok, cioè di fatto fai software che usiamo noi più o meno, cioè noi assistenza su software e hardware musicale. Senti, hai una famiglia, una fidanzata, hai qualcuno che ti sta vicino? No, di questo non è che mi stia preoccupando, però te lo domando. Tanti amici, la famiglia c'è, ma vivo, sono singolo, insomma, vivo da solo. Va bene, in quanto fai la maratona? 3:19. Wow, è buono 3:19, non so, sì, non so niente, però di solito si fa sopra i 4. Sì, no, è buona, diciamo 3:19 l'ho raggiunto con la mia terza, sono partito da 3 ore e mezza e per adesso sono su 3:19. Tu ti immagini un coniglio là davanti e vai dritto? Eh sì. Gianfranco, purtroppo la storia era molto lunga e quindi non ho più molto tempo. Vieni al live però di giovedì prossimo. Dai. Farò di tutto per esserci. Dai. Grazie mille. Ciao Gianfranco, grazie. Ciao, a presto. Ciao. 349-238-6666, follow the White Rabbit, mi scrivono. Ci sono altri che hanno visto animali assurdi. Mary, sulla ciclabile delle Groane, l'anno scorso, dopo una curva, mi sono trovata davanti un lama che correva. Ricordo i suoi occhi terrorizzati. Naturalmente me l'ho detto di tutto, cosa avevo bevuto, fumato, eccetera, eccetera. Ma per fortuna avevo un testimone. Ci vediamo giovedì 26 di giugno qui al live. Iscrivetevi gratuitamente tramite il sito di Radio 24. Grazie a Pietro Lacorte. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto a Gianfranco. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Luigi Fondi, ho 60 anni, vivo a Soriano nel Cimino. La storia di domani è la mia e parla di un lavoro che non voleva essere pagato. Questa è la mia storia e io sono qui.